ascoltare musica. Queste sono le insolite. Tre travestiti che nell'81 scrissero questo disco, questo 45. Travestiti. Il palco poi è una cosa incredibile, fa divertire un sacco. Due sono delle sorelle bandiera, giusto per capire. Bravi, hanno avuto un grande l'estate, aspetto un attimo. Vorrei farvi vedere la copertina. Amanti c'è posto. Colorate, scrivo il mio nome sopra gli alberi ai jukebox. Ma quando è sera sulla mia panchina, sono baciata solo dalla luna. Voglio un bikini, cani cardini, con le stelline, con i fiori o le paillette. E mentre per la voglio rosa, giallo oppure viola, con lo slippino, tanto in spiaggia sono sola. Ma la commessa dice questa è la misura, gigante nero intero e più sicura. E vuole la mia voce al mare, ci fa sognare, il sole brucia attorno a noi, ci fa impazzire. E tra le onde, noi siamo le onde, inconfondibili sirene vagabonde. E state al mare, ci fa sognare, il sole brucia attorno a noi, ci fa impazzire. E tra le onde, noi siamo le onde, e avendo la mano, inconfondibili sirene vagabonde. Ci possono dire tante cose di portare. Andiamo a ballare, ci rimbocchi le con le gambette da gazzella lavori, su e in giù. Mentre noi le discoteche tremano nel sangue, le piroette prima dei passi eseguo già. Ma molto spesso mi trovo a ma c'è, nel cuore c'è anche Ciceruacchio e Samantha Testa, mi sembra, no? Pregata, è stata usata nel film Nel castello del conte, a tutti piace fare quello tranne al portiere a cui piace fare le puzze, mi sembra di ricordare, no? Incomprensibili sirene vagabonde, incomprensibili sirene vagabonde. Mentre la luna di lassù ci fa morire, mentre con le maniere lavorano, spitano tutto, tirano i nastri, il tempo vola al cielo all'ombra di una caccia. E tra le braccia di un guardia caccia il tempo vola sotto l'ombra di una caccia. Non male. Sirene, venite a Radio Città Fuggito. Il pezzo della una. L'una e tre minuti. Canzone, il canto faccio libri e mi interesso di editoria, ma quando in Australia loro chiudono, accompagniamo decine e decine e decine di artisti famosissimi. Uno fra i più famosi è Ray Charles, con i quali sono particolarmente amico. Punto e basta. L'emergenza, cari amici, lo dicevamo, ti puoi mettere la musica che vuoi, te la puoi inventare e fare un film, oppure succede veramente, sono guai, bisogna respingere l'acqua e reginventarla, ed è un lavoro che si può fare assolutamente, alla fine tutto ritorna normale, ma bisogna guardare gli argini, perché guardare un territorio non vuol dire solo guardarlo un attimo e poi girarsi. Andare lontano dai parametri, bisogna guardarlo veramente, il territorio va sistemato. Nel 2011 allagamenti, alluvioni non ce ne dovrebbero essere più assolutamente. Allora il pezzo che sto per mettere è di Vittoria Solinas. Vittoria Solinas, più conosciuta un po' da tutti come Maria Sole. Satanismo. Grande, sì, Maria Sole, certo. A voi? Ho sesso pronto pronto e il seno gonfio gonfio. Ve l'ho detto, cari amici. È sempre un aprire nuovi inserti. Ho sesso pronto pronto e il seno gonfio gonfio, a dire na chiunque se ingiustizia è molto al seno delle gonfio garanzie gonfio, legali e leali. Pronto pronto della radio per raccontare. Gonfio, ascoltiamo questo, la l'ascolto anch'io. Aperta, dire sia il faccio permesso, silenzio per quattro minuti. Bene come bene sia l'onore al seno gonfio gonfio, al sesso pronto pronto. Ho tutto a posto, tutto provate e riprovate. Io sarò gusto gusto di tanto piacere come quale il vanto. Seno gonfio gonfio, il sesto pronto pronto, per fare fine al mondo di tanto strupo. E come lo strupo è la mortificazione, Maria Sole. Mondo il mondo per la sua scelta immonda. Sesso pronto pronto pronto, il seno gonfio gonfio a Radio Fujiko. Il sesso è chiuso chiuso chiuso, il seno è rosso rosso rosso, rosso a rossore si è toccato. Il seno gonfio gonfio, il sesso pronto pronto, su tutti pronti in guardia, sono a posto, col sesso pronto pronto. Il seno gonfio gonfio, la voglia matta in corpo di dire bene. Mi fanno vedere un disco con una dedica di Crax, una, diciamo, una raccomandazione di Bettino Crax, niente meno. A posto di un mondo, a posto, al seno gonfio gonfio gonfio. Sono senza parole. Pronto per la felicità. Quest'uomo è un... uno scovatore di vinili, davvero. Al seno gonfio gonfio gonfio, il sesso pronto pronto pronto. Ma dopo questo brano qui bene bene al mondo, verrebbe da dire bene, che bene bene al sesso pronto, ci vorrebbe un brano con semplicità e sensibilità fuori dal comune. Ci vorrebbe un brano con l'LP di Maria Sole, ha un sentimento commovente. Ci vorrebbe un brano con sua amica Mira. Ci vorrebbe un brano vita vita, ci vorrebbe vita vita, vita vita, un brano, non so, una roba tipo, ma non lo so, Brenno, non brano, brano, lo so, non lo hai so, hai detto un brano, un Brenno, un Brenno, ci vorrebbe un Brenno, Brenno da Trenno. In Derrungiale cerchiamo un brand. Metterei questo brano qua io. Brand, fai ascoltare la Derrungiata. Che da noi prende tinte carducciane quando è intinto nella penna del nostro poeta Stecchetti, in una celeberrima poesia, Il canto dell'odio, che si diceva addirittura dedicata alla regina Margherita.

me ne andavo da quella ran dei fax e delle stampanti che gli finisce sempre il toner, dagli scanner che non importano niente, dai modem che si connettono in analogico e i dati sono lenti. Me ne andavo da quella RAM delle SIM, delle DIM, dei PIN e dei jack. Quella smetto RAM quando voglio. Disk da 1x, 4x e dagli Omega Zip, dai CD-ROM, dai DVD e dalle card memory. Me ne andavo da quella RAM con i monitor al plasma, con la webcam e con il mouse senza fili che te fa sembrare più bello. Me ne andavo da quella RAM che ci invidiano tutti, quella RAM del Macintosh, dell'IBM, dell'Olivetti, della Sony. Quella RAM sempre accesa, di giorno e di notte, funzionante con i virus, antivirus, plugin, codec, scandisk, defrag. Quella RAM Dell, che c'hai 2 giga, prestame 100 mega. Quella RAM del sistema operativo che portava e porta ancora il nome di Bill Gates. Me ne andavo da quella RAM di merda. Mamma RAM. Addio. Il Tangazzo, una canzone di Celentano. Il Moro se ne va. Zena Gas. Il rosso se ne va, il biondo se ne va, se balla il cia cia cia, ma mi piace soprattutto l'amante, un po' focoso, nervoso, e perché no, un po' formoso. Se ne va, il biondo se ne va, non balla il cia cia cia, non ho colpa se mi piace, l'amante un po' deciso, fantasioso, e di più, se generoso. Comunque questa non era voluta, mi hai messo un pezzo scritto da Celentano e io ti metto un pezzo cantato da Celentano. Però non è di Celentano, eh. Non ho colpa se mi piace, l'amante, un po' deciso, fantasioso, e per di più, se generoso. Non ho colpa se mi piace, super assassina questa. Soltanto me, DJ a un punto ormai anche con te. Forse ammetterlo tu non vuoi, e sono certo che nei panni miei vorrei stare vicino a lei, e ne freghi degli anni tuoi. Perché lei è, lo sai, Diana. Fra la gente insieme con lei, mentre il barman già pensa che un bel giorno poi finirà. Come cugini un po' suonati, quasi morti e innamorati, resta qui con noi, Diana. Il tuo castello come va? Vivi la presentare alle mostre, vogliamo essere quelli del grande esodo delle strade. Transumanza strale, persone che ballano, ah sì, è pensabile solo nel pazzo. E per fare un appello, cari amici, lui e lei mi devono concedere una cosa. Io una volta, in un'altra occasione, ho avuto il nostro sindaco per amico, lo vorrei salutare e metterlo in guardia che siamo veramente bravi, potrebbe divertire anche lui e tutto il suo staff. Andrea Mingardi. Baby, ho bevuto una pozione, un grande e sto perdendo la ragione. Baby, non esisto più, non posso, la testa devo tingermi di rosso. Baby, inchiodami una gengiva, vedrà una lacrima furtiva. Presto, con uno spillo letto, brano che è diventato famoso come brano punk della storia italiana. Dritti e più carina. Punk, bel movimento.